Sempre con Rock Legends su Radio RCS e l'Onda Veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, in questo caso agli Hypnotetical. Allora, 98.6 per la Bassa Veronese e zona della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona Lago, Radio CS ovviamente la si può ascoltare anche attraverso lo streaming del sito internet www.radiorcs.it, tutti all'ascolto, mi raccomando. Dall'hard prog passiamo alla new wave of British heavy metal degli anni 80 con alcuni dei protagonisti di culto della scena. Prima canzone era Hammerhead dei Samson dal disco Head On nel 1980, formazione guidata dal chitarrista Paul Samson e viene spesso ricordata più che per i validi dischi per aver lanciato il cantante Bruce Dickinson, futuro Iron Maiden. Che ne pensate? È un gruppo validissimo. Io, adorando gli Iron Maiden, sono andato a scavare anche nel passato di Bruce Dickinson e ho scovato questi Samson. Li conosco bene, è Dawn probabilmente il loro disco più bello, anche Shock Treatris non è niente male, io li conosco bene, ecco. Ovviamente secondo me hanno un suono un po' datato, se vogliamo fare una critica, però Paul Samson è un ottimo chitarrista, molto divertente anche il filmato del DVD triplo di Bruce Dickinson dove viene riesumato questo film concerto dei Samson, dove si può godere di questa formazione con il batterista folle Thunderstick vestito con una maschera sadomaso dietro una gabbia. È un bel gruppo, sinceramente. Tra l'altro ha suonato anche il batterista di Simple Minds nel Live at Reading, Gaynor. È una formazione di tutto rispetto e a tutta la mia stima. Grandi Samson. Grandissimi. Dead World è il titolo del vostro disco, uscito nel 2009. Qual è il significato che avete voluto dare a questa breve frase? Vabbè, Dead World lo dice proprio il termine stesso, quindi un mondo morto, un mondo che purtroppo sta andando verso la fine. Questo volevamo dare questa sensazione ormai di ultima spiaggia di questo mondo, che insomma basta vedere un attimo attualità politica e quant'altro. I testi non sono politici, lo diciamo subito, però è questo senso di inquietudine che ovviamente vogliamo un po' trasmettere. Faremo di tutto per risollevare il mondo comunque, sperando con la nostra musica. Anche la cover, la copertina comunque in un certo senso rappresenta il disco Dead World, queste specie di finestre che danno su dei paesaggi surreali, dei colori che non si riesce a definire, cioè non c'è più una realtà dietro quelle finestre. Passiamo ora ai Raven, band inglese dalle ritmiche serrate, esordisce dopo una lunga gavetta nel 1981 con il disco Rock Until You Drop, da cui ascoltiamo Don't Need Your Money. Change my life when I just wanna relax. Trying to change my life when I just want to relax. Yeah. Ancora oggi in pista, nonostante il successo non arrida più a loro, i Raven hanno saputo creare un suono anfetaminico che poi è stato soppiantato dall'esplosione del thrash metal. Che ne dite? Allora, i Raven a me sono sempre piaciuti, con il loro athletic metal esagerato, i fratelli Gallagher, da non confondere con gli Oasis. Quelli sono altri. Sono altri. Hanno fatto veramente grandi album e sono stati soppiantati dai grandi. Qua farei parlare Marchesini, però. Beh, l'esplosione del trash, si sa benissimo, New Wave of British Heavy Metal, che ha dato là poi questa ondata, oserei dire, di gruppi inizialmente americani, ma poi l'esplosione è venuta in tutto il mondo. Nord America, Sud America, Europa, Germania, Inghilterra, anche in Italia, grandissimi gruppi. Comunque trash, che poi sfuriate pazzesche, cosa che noi adoriamo tantissimo, vero Luca? Certamente, certamente. Sì, ci fermiamo qui perché sennò dobbiamo fare una puntata, esatto, solo sul trash. Vostri ascolti musicali, quali sono e quanto influenzano la composizione dei brani? Beh, qui parlo io. I nostri ascolti musicali, beh, o meglio i miei, sono sicuramente le influenze principali che sono un po' di tutta la band, e quindi chiaramente il prog anni 70 e comunque l'evoluzione moderna di questo prog, quindi mi viene a pensare gruppi come i Porcupine Tree o i Pain of Salvation. Poi ovviamente ci influenza e ha influenzato la composizione di Deadward sicuramente il thrash metal, come già menzionato, e poi due dei gruppi più innovativi dal rock moderno, quindi i Tool e soprattutto i grandissimi Meshuggah. La seconda parte si chiude con il Rock Goddess, il trio inglese All Female, che chiuse la sua storia nel 1987 dal disco di esordio omonimo del 1983 con il brano Satisfied and Crucified. Nella terza e quarta parte ascolteremo sei brani del disco di Hypnotical dal titolo Dead World. We'll be right back.